Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sforzo 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Sempre la stessa storia per me, sempre la stessa vita per me. Entro per Tevez, si gira, Tevez cerca il guizzo, palla dentro, Vidal, rete, Juventus in vantaggio. Forse non verrà ad aspettare in vano, starò. Parte Pirlo, secondo palo, Perucci! La Juve raddoppia, terzo minuto. Mi desterò e troverò sempre la stessa storia per me. Pirlo morbido, palla sul secondo palo, la sponda, porta vuota, palla che resta lì De Santis. Attenzione, rosso, fallo di mano, cartellino rosso e calcio di rigore per la Juve. Bravissimo Rizzoli perché in quel mucchio non era facile. Parte Vucinic a rete, Mirko Vucinic, il 96° gol in Serie A, la Juve vola più 8. Sempre la stessa storia per me. Sì, sempre la stessa storia per la Juventus, per la Roma, per questo campionato che sembra volato via e siamo soltanto al 6 gennaio. 800240024 per le vostre chiamate in diretta, telefoni aperti in questa prima ora dei nostri appuntamenti di oggi, perché lo ricordiamo, siamo in onda fino alle 15 per parlare di Juventus-Roma, per raccontarvi le ultime su Pepito Rossi e sono notizie che fanno tirare in parte un sospiro di sollievo. Poi saremo in onda anche dalle 17 alle 18:30 con il dopo partita della 18esima giornata fino al fischio d'inizio di Lazio-Inter. 800240024 per dirci che cosa ne pensate, 349-238-6666 per i vostri messaggi, chiocciola tutti convocati se volete seguirci in diretta su Twitter. Vi do due numeri: negli 81 campionati a girone unico disputati sin qui 56 volte, chi ha vinto il titolo d'inverno poi si è laureato campione d'Italia, ma alla Juventus è successo 20 volte su 26. E poi il vantaggio più 8 a metà cammino, anche se in realtà manca ancora una giornata alla fine del girone d'andata, è accaduto da quando ci sono i tre punti altre 3 volte ed è sempre stato scudetto. Ciao Pier. Ciao. È sempre stato scudetto. Avevi ragione tu, io mi arrendo. Anche se mi aggrappo a questo, cioè al ricordo dell'Inter 2009-2010 che andava, se possibile, anche più veloce a metà campionato di questa Juventus e però alla fine ebbe bisogno dell'aiuto della Sampdoria per vincere lo scudetto, perché la Roma fece quella rincorsa meravigliosa. Mi aggrappo a quello, se no spegniamo tutto e andiamo a casa. No, non spegniamo tutto perché l'ha tenuto acceso a prescindere, perché ci saranno altre storie da raccontare, però insomma, se vuoi sapere come la penso, sai come la pensavo prima di ieri, quindi per me è tutto finito perché c'è una squadra che è nettamente più forte di tutte le altre. Insomma, ad oggi quello che mi viene da dire, la fredda cronaca è questa: al di là degli 8 punti in classifica, la Juve ha vinto 10 partite consecutive, ha vinto contro le due principali rivali, 3-0 e 3-0 in casa. Insomma, non è che c'è molto da discutere su questo, cioè sono numeri inoppugnabili, sono numeri statisticamente troppo rilevanti per non poterli considerare. Insomma. Sì, per non considerarli, un'indicazione. Non sono solo 8 punti di vantaggio, sono 8 punti di vantaggio da parte della squadra favorita, da parte della squadra più forte. Fosse stato il contrario, ci fosse stato oggi la Roma o il Napoli a posto dalla Juve, forse il discorso potrebbe essere diverso. Qui c'è la squadra che ha vinto il campionato della FA, che l'ha dominato l'anno scorso, e ha 8 punti sulla seconda. Mi sembra difficile, onestamente, pensare a qualcosa di diverso. Sì. Intanto ha 8 punti di vantaggio sulla seconda, che è la Roma, e ne ha 10 sulla terza, che è il Napoli. Mancano poco più di 10 minuti alla fine di Napoli-Sampdoria. Napoli avanti per 2-0 con doppietta di Mertens, 2 gol nella ripresa all'ottavo al 17esimo. Partita bellissima, tantissime occasioni da una parte e dall'altra. Napoli che ha anche rischiato, perché la Sampdoria ha colpito una traversa con Gabbiadini sull'1-0, ha colpito un palo pochi istanti fa. Ci sarà da discutere anche su un possibile calcio di rigore, sempre sull'1-0, poco prima del raddoppio di Mertens. Insomma, avremo modo di parlarne e anche di sentire in diretta le voci dei protagonisti, così come cercheremo di farvi sentire vivere la vigilia delle partite di questo 18esimo turno. Lo ricordiamo, tra poco meno di un'ora, alle 18, tocca a Milan-Atalanta. Dovrebbe non esserci Balotelli e nemmeno Montolivo, dunque Milan in emergenza. Poi Catania-Bologna, Genoa Sassuolo, Parma Torino e Udinese Verona. Le ultime su Giuseppe Rossi. Questa mattina gli esami strumentali al CTO di Firenze, il verdetto fortunatamente migliore rispetto a quello temuto nella serata di ieri, e dunque non rottura del legamento crociato del ginocchio destro, che avrebbe significato probabilmente la fine della carriera ad alto livello per Pepito Rossi, ma una distorsione del ginocchio destro con lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale. Cosa significa questo? Significa che al momento viene esclusa l'operazione e quindi i tempi di recupero potrebbero essere di 2-3 mesi, anche se in realtà bisognerà pazientare un paio di giorni, perché Pepito Rossi vola negli Stati Uniti, va dal professor Stedman, che l'ha già operato in uno dei due infortuni precedenti, e a quel punto sarà più chiaro tutto, diagnosi e prognosi. Noi comunque, caro Pier, a partire dalle 14.30 ne parleremo con il professor Piero Volpi e cercheremo di capire se Pepito Rossi è recuperabile per il mondiale. Intanto tiriamo un sospiro di sollievo. Sì, beh, è chiaro, perché comunque, insomma, c'è un qualcosa di incredibile nel destino di questo ragazzo. Tanto è amato, evidentemente, in ogni latitudine per quello che è come calciatore, fortissimo, ma anche come ragazzo, misurato, garbato, educato. Tutti i participi passati, che però gli aggettivi che in questo caso sono assolutamente strameritati, e però c'è un destino di sfiga che non sembra non conoscere i confini. Insomma, stiamo parlando di un ragazzo che viene da un doppio calvario e che oggi comunque, insomma, mette un grande punto interrogativo sul mondiale, in un momento in cui sembrava veramente alle spalle questa nuvola nerissima. Quindi siamo tutti con lui, aspettiamo di capire. Credo che, insomma, il Colorado nei prossimi giorni ci farà capire qualcosa di più, ma insomma, per Prandelli è un problema, è un problemone questo, dai. Sì, è un problemone. Io ho letto un'intervista di Natale di Prandelli alla Gazzetta dello Sport, dove spiegava di aver rinunciato definitivamente al doppio centravanti pesante, per intenderci Balotelli Osvaldo, e di voler andare al mondiale proprio con la coppia Rossi-Balotelli. Ho l'impressione che sarà una corsa contro il tempo, anche perché un altro Pepito Rossi non esiste in Italia come caratteristiche, al di là della qualità del giocatore, e quindi c'è il rischio che Prandelli si debba trovare a costruire una nazionale diversa. Abbiamo però tempo per parlarne. 800 24 00 24, 38esimo a Napoli, Napoli-Sampdoria 2-0, traffico. È tutto pronto? Il destro di Mirko, no! Vidi Vucinic, 3-0 nel segno di Zorro. Nel diluvio di parole del dopo partita, caro Pier, di ieri di Juventus-Roma, un paio di punti fermi. Partiamo da Conte. No, abbiamo cambiato approccio. Diciamo che la partita l'avevamo studiata, così come studiamo sempre tutte le squadre che affrontiamo, e quando studiamo le altre squadre cerchiamo di limitare gli aspetti e i pregi positivi della squadra avversaria, non cercando poi di non perdere i nostri aspetti positivi. Penso che l'abbiamo fatto oggi, l'abbiamo fatto con Napoli, ma lo facciamo sempre, sia che affrontiamo le prime della classe, sia che affrontiamo l'ultima. I giocatori lo sanno, l'allenatore sta qui, è pagato per preparare le partite proprio per questo motivo. Ecco perché poi sono allenatori più bravi e meno bravi, ecco, più pagati e meno pagati. Caro Pier, velenosetto Conte, poi ne parliamo. Secondo me si è tolto parecchi sassolini dalla scarpa ieri. Ma però ha ragione, io sinceramente non voglio che poi qua sembriamo manichei in un senso o dall'altro. Conte ha ragione, Conte ieri ha fatto un capolavoro. Diciamo che il paradosso è stato questo: e noi nella prima mezz'ora abbiamo visto per la prima volta in Italia quest'anno la Juve schiacciata a tratti, o comunque messa sotto sul piano del gioco, del possesso palla nella sua metà campo da un'altra squadra. Però abbiamo capito dopo, anche per come andare a finire, che era forse addirittura una strategia, cioè che comunque la Juve quello che voleva assolutamente evitare era di concedere campo alle ripartenze della Roma, e quindi ha scelto di giocare abbastanza bloccata, abbastanza prudente, molto coperta, molto corta e molto stretta, e la Roma che arrivava con grande entusiasmo e con grande autostima a questa partita se l'è giocata in quella maniera lì, un po' champagnona, e poi alla fine, dopo il gol dell'1-0, la partita è completamente cambiata. Ti ricordi chi era quell'altro allenatore che amava lasciare la palla agli avversari e poi costruire su questo possesso degli altri le sue vittorie? Recente. Beh, mi viene in mente Mazzarri, per esempio. Mi viene in mente Mourinho, te lo ricordi tutta la polemica il pallone lo lasciamo agli altri e noi andiamo a fare gol. Ma non c'è, guarda, sinceramente non c'è niente di male, è chiaro che secondo me è difficile essere una grandissima squadra giocando soltanto in contropiede, ma la Juve non gioca mai in contropiede. La Juve ieri ha fatto una scelta. Sì, si tratta di una gestione diversa. Per limitare le caratteristiche migliori della Roma. Insomma, l'esempio della partita migliore dell'anno, Inter-Roma, secondo me in qualche modo è servito. La migliore partita della Roma dell'anno, no? Che difesa a 3, Roma stretta, corta, con le ripartenze ha fatto malissimo. Poi, ovviamente, ci sono anche gli episodi, questo è evidente, perché il gol dell'1-0 è il gol che questo tipo di situazione tattica poi la esalta, perché dà alla Juve la possibilità di ripartire. Però io credo che poi questo vale dal primo al 35esimo. Dal 35esimo in poi si è assistita invece a un'esecuzione vera e propria di una squadra nei confronti dell'altra, e l'aspetto secondo me più inquietante della Roma non è aver perso questa partita, ma il come sono saltati i nervi nel secondo tempo. Cioè, si sono rivisti alcuni vizi storici delle peggiori sconfitte della Roma di questi anni. Adesso Roma-Genoa diventa un gran casino per la Roma da pensare, da organizzare, con le squalifiche o gli infortuni. Insomma, c'è la grande squadra. Sì, c'è qualche segnale preoccupante, al di là di quello che poi sarà Roma-Genoa. La grande squadra può perdere, cioè si può perdere con la Juve. E ribadisco, nella prima mezz'ora io ho visto una squadra che comunque riuscire a mettere sotto la Juve e a fare delle cose molto interessanti. Non è stata fortunata sicuramente nella prima mezz'ora, no? Essere sotto 1-0 per come stava giocando. Però poi nei 90 minuti devi avere un'esperienza, una capacità di stare al mondo che ieri la Roma non ha avuto. Sì, mi sembra che anche Garcia sia un po' presa. Saluto Roberto Renga, ciao Roberto. Sì, buon pomeriggio a tutti. E Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport, buon pomeriggio direttore. Buon pomeriggio a tutti. Allora, due numeri sulla Roma: nelle prime 10 partite 10 vittorie e 30 punti, nelle 8 partite successive di punti ne sono arrivati pochini, 8 con due solo vittorie, 11 scusa, con due sole vittorie, quella di ieri è stata la prima sconfitta, ma soprattutto 9 gol presi, era stato un solo gol preso nelle prime 10 e praticamente la Roma da lì in poi ha fatto la metà dei gol. Allora io partirei da Roberto Renga, qual è il contraccolpo, il peso di questa sconfitta? Ma guarda, intanto volevo dire, anche se non sbaglio, nelle ultime 5 partite 7 gol presi. Beh, adesso io personalmente mi interrogo sul fatto che la Roma regga per 30 minuti, perché evidentemente immagino che Garcia non pensava che dopo 30 minuti le energie sarebbero finite, perché ha chiesto ai suoi di giocare all'attacco, di fare pressing alto, che è ovviamente un modo di giocare molto dispersivo, e dopo 30 minuti la Roma è sparita, per cui ci dobbiamo chiedere se è un calo mentale oppure un calo fisico. E qui a Roma ci si interroga sulla preparazione di Garcia, perché è una preparazione molto leggera, che può andare bene o può andare male, non lo so. Adesso so che arrivati a Natale, almeno alla partita di ieri, alla partita clou, quella decisiva, la Roma ha retto 30 minuti, il che è abbastanza preoccupante. È preoccupante anche quello che si è visto nel finale, la doppia espulsione, soprattutto quella di De Rossi, quei segnali che riportano un po' al passato, quando spesso la Roma perdeva la testa oltre alle partite. C'è certo, andiamo al doppio calo, mentale o fisico, e ieri forse ci sono stati entrambi. È chiaro che se il calo è fisico devi magari fare dei richiami di preparazione, non lo so, questo Garcia è un preparatore, saprà intervenire. Per quanto riguarda il calo mentale diventa più difficile. Direttore Oreggia, oggi ho letto prime pagine molto simili, il concetto era troppo forte la Juve, troppa Juve per la Roma, probabilmente troppa Juve per il campionato italiano. È finito tutto ieri sera, come dice Pierpardo? No, assolutamente no, io penso che la Juventus a questo punto può solo perdere lo scudetto, però non c'è niente di finito e non c'è niente di definitivo, c'è ancora tanto da giocare. Io mi ricordo dopo 10 vittorie che cosa si diceva di fila, cosa si diceva della Roma. Adesso io credo che dopo 10 vittorie di fila della Juve, anche se probabilmente lo spessore della squadra campione d'Italia e l'abitudine a vincere un po' fanno la differenza, però io userei sempre, sempre molta cautela, anche perché poi riprendono le coppe e quindi insomma qualcosa può ancora succedere. Certo, 8 punti sulla Roma e adesso non 10 sul Napoli, quasi. Sì, 10 saranno quasi sicuramente 10, siamo 10 in tempo di recupero. 10 sul Napoli, insomma, per la Juventus mi pare che siano veramente tanta roba, insomma. Io credo che dopo le prime settimane in cui c'era un po' di confusione alla Juventus, probabilmente dovevano essere rimesse in sintonia alcune feste. Adesso la Juventus viaggia più o meno come viaggiava l'anno scorso, però devo dirvi con onestà che io per mezz'ora ho visto la Juventus giocare quasi in soggezione contro la Roma, cioè non esagerare, essere molto umile, tenere gli esterni bassi contro una squadra che premeva, che faceva il pressing alto, come ha detto Roberto. Insomma, io negli ultimi anni non ho mai visto una squadra in Italia, non parlo della Champions, in Italia mettere così in apprensione la Juventus. E poi sapete che a volte le partite cambiano su degli episodi, insomma, quella palla persa in dribbling di Bonucci, se veniva trasformata probabilmente la partita avrebbe preso una piega diversa. Pochi minuti dopo c'è stato il gol di Vidal, questo al di là dei valori assoluti delle due squadre. Certamente, Pier, la cosa bella è che non parliamo di arbitro oggi, anche se poi sentiremo, c'è stata l'uscita di De Santis sul sistema che sta facendo discutere, mi sembra che anche se qualcuno pronosticava, lo abbiamo detto ieri, che non avrebbe retto alla pressione di questo Juventus-Roma, Rizzoli non sia stato un fattore, o meglio, abbia confermato di essere il numero uno. Questo toglie ogni problema e ogni interpretazione anche alla superiorità e alla vittoria della Juventus. Ma assolutamente, questo argomento qui, del quale parlavamo anche ieri pomeriggio, che è un argomento storico, tradizionale, che a Roma e non solo a Roma viene considerato con grande attenzione, no? Il presunto vento del nord, cioè non deve diventare mai un alibi, nel senso che oggi la Roma secondo me è nella condizione, comunque nella classifica e nella qualità tecnica, di poter pensare a un campionato straordinario per quelli che erano gli elementi di partenza, no? È seconda in classifica, ancora grandissime cose da fare, ha un obiettivo che secondo me è almeno il terzo posto, il ritorno in Champions League, che è un obiettivo eccezionale per come era messa in estate questa squadra. Quindi deve concentrarsi sul famoso bicchiere mezzo pieno e gli arbitri non devono diventare un alibi, anche perché sinceramente proprio questa volta non c'è proprio materiale. Assolutamente, a maggior ragione coinvolgo Roberto Renga e Vittorio Reggia, no. Mi aiutate a capire la sparata di De Santis, poi la sentiremo dopo la borsa. Roberto, comunque lui accusa il sistema italiano di rendere la Juventus ancora più forte di quello che è. Roberto, intanto è finita Napoli-Sampdoria 2-0. Roberto. Sì, 2-0. Ma devo dire che io ho avuto questa sensazione che De Santis abbia cercato del tutto per inserirsi nel clima romano, del tifo romano, anche delle radio romane, anche dei giornali romani che hanno parlato molto, no, della Juventus aiutata e della Roma boicottata in qualche maniera. Io non sono d'accordo, a me sembra che quest'anno sia tutto regolare, però a Roma c'è stato questo clima e De Santis, che è l'ultimo arrivato, ha cercato subito di inserirsi, magari cercando di acquisire simpatia presso la tifoseria, perché sinceramente io non ho avuto questa sensazione. Sì, un'uscita fuori contesto, tra l'altro, proprio ieri sera. E poi ieri sera, quando c'è una partita assolutamente regolare, in cui l'arbitro, non so se è stato il migliore, ma sicuramente è stato tra i migliori in campo, in una stagione in cui la Roma probabilmente può lamentarsi per un rigore a Torino, forse la Juve sicuramente comunque Juve sono dettagli rispetto a quello che si vede in classifica. Abbiamo visto in Italia, abbiamo visto di tutto, ma direttore Oreggia, ma io ti sei dato una spiegazione? No, io l'ho catalogata come una minchiata, detto con tutto il rispetto, come dicevano i latini, perché un conto è la battuta di Totti sugli aiutini, e poi comunque parla Totti, insomma, uno che la romanità ce l'ha addosso e nessuno come lui, insomma, può anche rappresentare un po' il passato della Roma, e ci sta, detto da Totti. Reiterato da De Santis mi è sembrata veramente una cosa fuori luogo e fuori contesto, ma io penso, siccome De Santis lo conosco, un ragazzo a posto, probabilmente risentendosi e rileggendosi avrà capito anche lui di avere detto, insomma, una stupidaggine, poi soprattutto ieri sera l'avete già detto tutti voi. Insomma, io purtroppo, lo dico a malincuore, devo fare complimenti a Rizzoli. A me Rizzoli non mi piace perché ha sempre degli atteggiamenti un po' da Ducetto, da Sapientino. Ieri sera è stato perfetto, e quando uno è bravo bisogna dire che è bravo con questo. Del resto io ho l'impressione che comunque quelle frasi sugli aiutini si siano rivelate alla fine un boomerang, perché ieri ho letto tra le righe anche una certa voglia di rivalsa, magari non tanto in Conte, ho visto Bonucci, ho visto Barzagli, tanti comunque hanno sottolineato di essersi caricati anche per quelle parole. Ma guarda, io non ci credo che dei giocatori che hanno vinto un mondiale si carichino perché Totti, che è un ragazzo che tutti conoscono, ironico, insomma, abbia parlato di aiutini per la Juve. Oggettivamente non ci credo. Poi a fine partita ci sta che Buffon dica che chi parla di aiutini è perché cerca alibi e ha vinto poco, non ha vinto nulla. Però io penso che al di sopra di Totti sia un po' super partes, come lo era a suo tempo Del Piero, insomma, sono quelle icone. Totti è possono anche l'abbraccio con Buffon, se ci avete fatto a casa, inizio partita, è stato veramente quasi commovente, no? Cioè, poi fa capire che fra grandi campioni c'è un rapporto che supera tutto. Però secondo me in assoluto questa carica enorme dell'ambiente, che chi conosce Roma, Roberto se lo potrà confermare, è chiaro che è qualcosa che innamora, no? Chi gioca nella Roma. Ieri c'erano comunque 2100 persone che hanno continuato fino alla fine a sventolare le bandiere, anche sul 3-0, anche 9 contro 11, quindi questo è un aspetto ambientale fantastico. Delle volte però ti porta a fare degli errori, e secondo me prima di una partita come questa non devi dare ancora più forza mentale a una squadra che è già fortissima di suo, e tutto quello che può essere fatto, che magari non si carica per quelle parole, ma certamente non passano via come fossero acqua fresca. Pier, c'è la borsa, dobbiamo fermarci. Salutiamo Vittorio Reggia, saluto anche Roberto Renga. Ciao Roberto. Buon pomeriggio a tutti. Intanto abbiamo visto la San Siro, le immagini, l'arrivo di Adriano Gagliani con Kesche Onda, perché così si pronuncia, mezz'ora a Milan-Atalanta, 800-24-0024, borsa. La prima sconfitta, parte Vucinic, il gol. Al 31esimo, guardate come esulta, non ha mai esultato quando giocava così alla Roma, st'altro vergognoso. Questo era Zampa, se non l'hai riconosciuto. 800-24-0024, Pier. Tra l'altro ieri sera poi abbiamo scoperto che quell'esultanza è stata un omaggio ai follower di Twitter. Succede anche questo, fai l'esultanza dell'uccellino da un'idea del social media manager, dal consulente media Max Sardella di Mirko Vucinic, vedi quante notizie so, che gli ha dato questa idea, e quindi lui ha festeggiato con l'uccellino in segno di ringraziamento ai follower su Twitter. Sono tempi moderni, no? Modernissimi, direi. Gli amici da casa, abbiate l'onestà intellettuale di dire che la Juventus in fase difensiva con Tevez e Llorente sulla loro tre quarti fa il puro e semplice catenaccio. Non lo so, io non mi sento di sottoscriverla. Poi è vero che Conte l'ha preparata. Conte è il catenaccio. Catenaccio. A me non sembra che la Juventus abbia giocato in difesa. Ha avuto difficoltà per 20 minuti, su questo non c'è dubbio. Però faceva anche parte di una strategia. quella di lasciare il pallone agli altri per evitare di lasciargli gli spazi. Io trovo che sia un pregio questo, una virtù, averlo pensato e realizzato. Poi non è che la Juve lo fa sempre, cioè non è una squadra di contropiedisti catenacciari che gioca sempre di riflesso, è una squadra che ieri abbiamo visto in difficoltà sicuramente nella prima mezz'ora, sicuramente nella prima mezz'ora il risultato più giusto non era la vittoria della Juve, perché la Roma ha giocato meglio della Juve, su questo non ci sono dubbi, però voglio dire, non è una squadra, anche perché sinceramente col catenaccio non vinci 38 partite, cioè non vinci una competizione lunga col catenaccio. Col catenaccio puoi fare come ha fatto il Chelsea in Champions League 2 anni fa, cioè puoi vivere tre partite meravigliose e fortunate con Barcellona e Bayern. È la manifestazione dei dettagli, degli episodi. Ma sul campionato non lo puoi vincere col catenaccio. La Juve oggi è la squadra più forte d'Italia. Avevamo il sospetto, adesso abbiamo le prove. Non ci sono discussioni e secondo me confutare questa cosa qui è proprio non negare l'evidenza. Negare l'evidenza. Il calcio è fatto di dettagli, il calcio è fatto di concentrazione, è fatto di errori. Ieri la differenza è stata anche nei dettagli, lo sfruttamento dei calci piazzati. Bonucci quel movimento lì l'ha fatto, la difesa della Roma lì ha dormito. Sul gol dell'1-0 De Rossi da 2 metri in marcatura a Tevez, e Tevez fa quello che gli pare e lo fa benissimo per Vidal. E il calcio è questo. Cioè non è che poi E quando il verdetto è così chiaro, così netto, così evidente, bisogna riconoscerlo. Così come io penso al famoso Inter-Roma 0-3, lì, anche lì sicuramente c'erano dettagli, recriminazioni, eccetera. Sì, episodi. Ma il campo però parla. La lettura complessiva era che alla fine la Roma quel successo certamente l'aveva meritato. Assolutamente. Come Napoli ha meritato il successo 2-0 sulla Sampdoria, vediamo se riusciamo poi a pescare la voce di Benitez in diretta e anche quella di Mihajlovic, perché comunque anche di questa partita si parlerà anche per alcuni episodi, perché la Sampdoria in parte è stata sfortunata. 800 24 00 24, cominciamo. Laura da Roma, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio, grazie. Prego Laura. Per la convocazione. Io concordo, diciamo, proprio con la strategia che ha usato Conte, però credo che la strategia di Conte è stata vittoriosa, perché il Conte era una squadra come la Roma che ancora deve dimostrare la propria sicurezza, cioè deve proprio conquistare la propria sicurezza. Di fatto anche la romanità di cui si parla, questo tifo romano così incredibile, che secondo me è adolescenziale ancora a questo livello qua, è un tifo che crea un'aspettativa talmente alta che la squadra in campo, ecco, più che agire in qualche modo in maniera strategica, deve dimostrare che, cosa che sono passati 3 anni di limbo in cui la Roma veramente ha languito. Sì, posso dire una cosa, Laura? Posso dire una cosa? Ad esempio, sì. Pier, io non so come la pensi tu, lo scrive anche un amico, Totti si era rifatto, come spesso capita nelle gare dove più servirebbe che facesse la differenza. Ora, magari messa così è un po' troppo, ma ieri sera era proprio obbligatorio giocare con Totti dal primo minuto? No, beh, col senno di poi sicuramente no. Sempre visto che abbiamo citato un minuto fa Inter-Roma, che è stata l'altra grande partita assieme a Roma-Napoli del campionato della Roma, e lì Totti fece doppietta, quindi secondo me questo discorso non vale sempre. Sicuramente ieri sera Totti non è stata all'altezza. No, la chiave quasi psicanalitica sul tifo adolescenziale della Roma è molto interessante. Il tifoso della Roma, il combinato che viene fuori dalle radio, dalla passione, dall'entusiasmo, dall'indole del romano. Ieri c'era un pezzo di Giancarlo Dotto sul Corriere dello Sport, secondo me interessantissimo da questo punto di vista. Lui lo scriveva ovviamente da un punto di vista romanista e parlava di un'arroganza del cuore immotivata, no? Nel senso che poi i successi della Roma non portano a essere arroganti, ma il tifoso della Roma questa arroganza benigna, autoironica, ce l'ha dentro di sé, ed è un tratto caratteristico della romanità, e secondo me è un tratto molto bello. Però è vero quello che dice. La domanda su Totti te la facevo apposta, perché probabilmente è quello stesso tratto che poi rende, io non dico impossibile, ma sicuramente difficile, una volta disponibile, tenere fuori Totti in questa partita. Guarda, io che è la partita delle partite. L'ultimo che ha vinto lo scudetto a Roma, che è Capello, con una grandissima squadra, e qualcuno dirà anche che forse ne poteva vincere almeno un altro, credo che abbia fatto tutta una serie di battaglie all'interno per riuscire non dico a reprimere, ma a controllare l'eccesso di entusiasmo, di passione, di amore che continuamente esiste in quella città da parte di quella tifoseria. E quindi, secondo me, dal punto di vista letterario, dal punto di vista giornalistico, questa adolescenzialità è stupenda, è bellissima, perché il tifoso della Roma è tifoso, cioè uno che non conosce mediazioni, che non conosce razionalità in certi momenti. Poi la squadra probabilmente qualche volta si fa prendere da questo tipo di situazione, però secondo me la realtà di Juve-Roma di ieri è che in questo momento la Juve è più forte della Roma. La Roma sta facendo un campionato fantastico, sta crescendo, ma la Juve è un gradino sopra. Rispondiamo ad Ulisse che ci sta inondando gli SMS. Se Chiellini fosse stato espulso per un intervento nel primo tempo simile a quello di De Rossi nel secondo, come sarebbe finita la partita? La mia risposta è che l'intervento è analogo, ma non è la stessa cosa. La tua? Sì, sono d'accordo, non è la stessa cosa. Così può risparmiare qualche centesimo di euro, perché ne sta mandando in sequenza di SMS. No, comunque non era la stessa cosa. Espulsione di De Rossi assolutamente legittima, quello di Chiellini un brutto fallo da ammonizione. De Rossi è brutto, è molto brutto, non ci sono discussioni, il rosso ci può stare. Io credo che lui volesse, c'era sicuramente un elemento di frustrazione, no? Di quando la gamba non riesce a fermarla con la testa, no? La lascia andare perché c'è la frustrazione di una partita che si è messa malissimo, però credo che fosse in origine un intervento per prendere il pallone quello. Detto questo, poi è chiaro che finisce così, il pallone è già andato via, insomma, io non ci ho visto una intenzionalità, però è chiaro che è un intervento dove il rosso ci può stare. Assolutamente. Gagliani da San Siro. Devo sempre allenarsi, no? Anche oggi a mezzogiorno ho detto no, non mangio, arrivo dopo, mi voglio allenare, e continuo a una voglia pazza di allenarsi. Poi mi ha detto una cosa molto carina, gli ho chiesto se era felice, ieri sera siamo stati a cena assieme, lui mi ha detto no, io sarò felice solo quando giocherò bene e farò vincere il Milan. Quindi primo impatto molto molto positivo. Beh, insomma, parliamo oggi di due nuovi acquisti, Onda lo vedremo la settimana prossima. Prima in studio parlavamo anche di calciomercato e parlavamo di un'asta che si è scatenata su Nainggolan. C'è anche il Milan? No, assolutamente lasciamo ad altri fare queste aste, anche se credo che l'asta sia finita, perché evidentemente conosco le logiche del mercato, quindi non c'è nessuna asta, l'asta si è già conclusa. A chi va, quindi? Non ve lo dico. Ma voi siete bravi. Vabbè, Gagliani sta ridendo, Pier. A chi va Nainggolan? Perché a Napoli, ci siamo svegliati che andava al Napoli, abbiamo pranzato con il rilancio della Roma. Secondo le logiche del mercato di Gagliani, a chi si sta riferendo? Io penso a Napoli, però forse mi sono perso un pezzo mentre guardavo Napoli-Samp. C'è il rilancio della Roma, 3 milioni subito, 6 e mezzo per la metà e poi il resto a rate comode a partire dall'anno prossimo. Vedremo di capire. In un certo senso, visto che poi tanto deciderà il giocatore, Nainggolan ci dirà secondo lui chi arriva secondo in classifica, nel senso che adesso Roma e Napoli sono separate da due punti, vedremo dal suo punto di vista quale dei due progetti è più stimolante. Io credo che a Napoli lui abbia maggiore titolarità assicurata, serve molto anche alla Roma sicuramente, però insomma al Napoli secondo me è titolare inamovibile, perché è un giocatore che in questo momento è superiore. Il centrocampo del Napoli non è esaltante, il Napoli è eccezionale davanti, ma secondo me ha bisogno di energia lì in mezzo. Con la Roma c'è un po' di concorrenza in più, non lo so. Sentiamo Benitez se glielo chiedono. Sky Sport. Per la traversa dei gabbiatini sull'1-0, che insomma potevano rimettere in discussione il risultato. Sì, sono d'accordo, credo che la squadra ha avuto tante occasioni che poteva fare la differenza al primo tempo, non l'abbiamo fatto, il secondo tempo con loro un po' più aperti abbiamo avuto tante occasioni lo stesso e loro hanno fatto una o due buona giocata che ha messo in difficoltà la nostra difesa. È più soddisfatto della doppietta di Mertens o dell'assist di Higuain nel quinto? Insomma, un giocatore che sta veramente facendo la differenza a tutto campo. No, tutte e due, è sempre il lavoro della squadra. Ieri Dries ha provato con la palla inattiva, Gonzalo sappiamo che ha l'intelligenza del gioco, che lui capisce il gioco molto bene e trova i compagni. Credo che la squadra come squadra ha lavorato bene, sempre mi sembra che possiamo chiudere un po' le partite prima e possiamo essere un po' più chiusa nella fase difensiva, ma abbiamo creato tante occasioni che credo che per i tifosi è importante vedere una squadra giocare un football così offensivo. Claudio da Venezia, buon pomeriggio. Salve, buongiorno. Prego. Sono un po' emozionato, la prima volta che la chiamo. Figurati. Volevo che analizzaste anche l'intervista fatta a Garcia e a Conte, nel senso che tanto di cappello a Garcia, nel senso che pur avendo perso la partita è stato correttissimo nella sua intervista. un po' meno per me Conte, insomma, nel senso che non ha, vorrei vederlo a parti inverse sugli arbitraggi, ecco, questo sì, perché Conte anche contro la Fiorentina ha detto che ha dominato la partita e l'ha persa, e poi ha criticato un po' anche l'arbitraggio. Mi piacerebbe sentire la vostra opinione su questo. Sì, la mia opinione è che... dico un'altra cosa, sì. Poi anche, per chi ha giocato a calcio, anche, non solo il sottoscritto, ma anche ad altri, ma quando si scende in campo e si ha... Allora, Totti fa un fallo su Bonucci e l'arbitro lascia correre, poi un minuto subito Bonucci dà un pestone a Totti. Il fallo che ha fatto Chiellini su Pjanic, sapendo che il ginocchio che stava male è uscito per quello e poi di entrata è stata una bella randellata, e sono sensazioni che poi per i giocatori contano molto, e io capisco, sì, anche Claudio, però non possiamo di De Santis. Claudio, però non possiamo fare, secondo me, vivisezionare Juventus Roma come è andata ieri sera, rifacendosi agli episodi. A me Garcia è piaciuto tantissimo, io l'ho detto in apertura, ho trovato Conte un po' velenosetto, forse in maniera eccessiva, ma non per la questione arbitrale o quella degli aiutini. A me non è piaciuto ad esempio quel riferimento all'allenatore italiano che finalmente è stato più bravo di uno straniero nel preparare la partita, quando mai qualcuno ha detto che gli allenatori italiani sono inferiori a quelli stranieri, a partire dallo stesso Conte. Pier, c'è il traffico, poi ci dici come la pensi. Traffico. Mi dispiace soprattutto se il giocatore si è fatto male, questa è una cosa che mi dispiacerebbe tantissimo, perché anche io ho passato dei momenti, degli anni durissimi dove ho subito tre interventi, ma la cosa che posso dire è che non è assolutamente un fallo per far male, cioè quella è una cosa che mi viene non per giustificarmi, ma è la pura verità, cioè se si rivede dalle immagini è un fallo normalissimo che comunque alla fine magari causato a Giuseppe Rossi, che ha avuto dei problemi, allora ha scatenato questi problemi. Però io con la massima sincerità, ma proprio con la massima lealtà, mi sento dire che ho fatto un fallo, sì che era fallo, ma non un fallo da far male. E predichiamo lealtà sportiva, parliamo tanto con i nostri calciatori per quello che riguarda un atteggiamento di lealtà all'interno del campo. E il fallo ci può anche stare, però è l'atteggiamento successivo che ci ha veramente dato fastidio. Secondo me è un atteggiamento molto molto antisportivo da parte del calciatore. Una dichiarazione molto forte, il presidente è libero di dire tutto quello che vuole, il nostro presidente. Secondo me, caro Pier, Andrea Della Valle non è proprio libero di dire tutto quello che vuole, ad esempio di dare del farabutto a Rinaudo. Ma ha avuto una reazione a caldo di pelle. Stasera a Tiki-Taka ne parleremo lungamente con i protagonisti, e tra l'altro vedremo anche le immagini di quella scena a cui faceva riferimento Galliani, quella di ieri sera con Onda, immagini esclusive e dichiarazioni esclusive. Scusa il momento dello spottone. No, però si dice Onda, cartellino Onda, giallo. Sì, ho capito, adesso datemi qualche giorno, domenica prossima faccio Sassuolo Milano, una settimana, sei giorni per studiare la pronuncia. No, rispondi all'ascoltatore che poi ci ascolta, sì. Il professor Piero Volpi, cercheremo di capire che cosa attende Pepito Rossi, però siamo in debito di una risposta su Juve-Roma. La mia? Sì, tua, all'ascoltatore di prima, le dichiarazioni di Conte Garcia. Ma sì, no, ma Conte è bravissimo, Conte è bravissimo, e fa parte di quella schiera di allenatori che la polemica la amano, e che probabilmente per caricare se stessi e la squadra spesso amano sentirsi assediati. Sempre più simile a quello là. Parlava del rumore delle banche, Capello è uno, insomma, ci sono secondo me due, dall'esterno ci sono due stili di leadership molto molto chiari, una leadership diciamo così di conflittuale e una leadership invece più dialettica e più serena, e ci sono due categorie di allenatori. Semplifico, è chiaro che Ancelotti ha un atteggiamento diverso da Mazzarri mediamente, poi anche Ancelotti nella sua vita qualche polemica l'ha fatta, però insomma Conte secondo me rientra in quella categoria lì, ma secondo me è anche un modo in certi momenti per caricare se stesso, la squadra, insomma non ci vedo niente di male. No, è semplicemente sempre più simile a quello lì di cui abbiamo parlato anche prima. Conte è bravissimo, se qualcuno glielo riconosce secondo me sbaglia. E certe volte ma ieri sera per esempio era rilassato, ieri sera nel post-partito, sì, meno male che era rilassato, era molto rilassato, assolutamente. Dai, salutiamo Piero Volpi, buon pomeriggio Volpi. Buon pomeriggio a voi. Allora, il bollettino l'abbiamo letto, distorsione del ginocchio destro per Pepito Rossi con lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale, niente rottura quindi del crociato, quello che probabilmente, mi corregga se sbaglio, avrebbe posto, non dico fine, ma comunque messo in dubbio l'intera carriera e non solo il mondiale di Pepito Rossi. Rossi che va negli Stati Uniti, al momento sembra esclusa l'operazione, ma serviranno un paio di giorni per avere l'esatta diagnosi e l'esatta prognosi. Allora, la domanda che tutti si fanno è questa, con questo tipo di bollettino e a quanto si sa in questo momento, di che cosa si sta parlando come tempi di recupero? Ma innanzitutto bisogna, se la diagnosi clinica, non solo della risonanza magnetica, ma la diagnosi clinica è quella, esattamente quella del comunicato e verrà confermata anche dagli specialisti, dallo specialista che l'ha operato e lo rivedrà, diciamo che la prognosi è una prognosi relativamente buona per una guarigione completa senza intervento nel giro di 2-3 mesi. Sì, dipende molto, e questo non lo sappiamo nessuno di noi, ma solo chi lo vedrà lo sa, se si tratta di una lesione che interessa il tratto prossimale, cioè sul femore, o il tratto distale sulla tibia, perché hanno anche nello stesso legamento delle possibilità di guarigioni un po' migliore rispetto a una sede rispetto all'altra. Quindi essendo un ginocchio comunque che è già stato operato 2 volte al crociato, è chiaro che questa è una lesione che deve guarire perfettamente, perché se non guarisce perfettamente, ovviamente una micro instabilità su questo legamento collaterale residua può far rischiare. Potrebbe far rischiare anche o compromettere in una ripresa successiva o troppo affrettata o con una guarigione non completa anche l'impianto del legamento dell'ultimo intervento chirurgico. Quindi non occorre aver fretta, bisogna seguirlo bene dal punto di vista della cicatrizzazione del legamento, della lesione, ma queste cose ovviamente gli specialisti del ginocchio, cioè gli esperti del ginocchio e questo chirurgo cui stiamo parlando, del professor Rossi, Stedman. Esatto, Rossi si è rivolto, è sicuramente una fra le persone più competenti in questa materia, lo sanno, sicuramente provvederanno a dare i tempi corretti. Volpi, 3 mesi, siamo a inizio aprile, noi dobbiamo considerare Pepito Rossi un giocatore ancora convocabile per il mondiale, oppure quella prudenza, perché stiamo parlando di un ginocchio martoriato in carriera, fa sì che questi 2-3 mesi in realtà siano soltanto una base di partenza? No, io penso che i margini per poterlo vedere con la nostra nazionale ci siano tutti, non bisogna nel primo periodo avere fretta nell'accelerare i tempi di guarigione. E diciamo che il primo mese, da adesso a 30 giorni, è il periodo fondamentale, perché se si riesce a capire, a vedere che la cicatrizzazione sarà ottimale, allora poi io penso che le prospettive siano più rosee per il giocatore, per la Fiorentina e per la nazionale. Pier? Sì, io volevo capire che tipo di, cioè se esiste una correlazione, perché questo è il ragionamento che in tanti hanno fatto, no? Il pensiero che abbiamo avuto tutti, visti i problemi che aveva avuto in passato Pepito, se c'è una predisposizione, se rimane una predisposizione particolare di questo tipo oppure no, oppure se l'infortunio di ieri è qualcosa da considerare completamente disgiunto dalla storia ortopedica di Pepito. Ma diciamo che oggi in Italia, solo in Serie A, sta giocando in questo momento, nella giornata di oggi per esempio, il 15% dei giocatori che hanno avuto una lesione al crociato, quindi non sono pochi, sono parecchi, e hanno tutti delle ginocchia funzionalmente valide, ottime, ma anatomicamente riparate, quindi un minimo rischio esiste anche in un intervento perfettamente riuscito in un giocatore perfettamente recuperato, perché la ricostruzione del legamento crociato è una, come dice la parola stessa, una ricostruzione di un legamento, che è un pezzo di ricambio di un tendine che viene messo al posto del legamento, non è una riparazione spontanea. Detto questo, però, funzionalmente noi abbiamo tantissimi giocatori che poi hanno giocato l'intera carriera senza avere più problemi. Io tornerei con la correlazione, la domanda è pertinente e molto intelligente, invece sul fallo che è stato fatto. Ecco, lei come lo giudica? Ecco, io lo giudico in questo senso, fatta salva la buona fede del difensore di Rinaldo, su questo non ci sono dubbi, perché nessuno penso che oggi abbia intenzione di giocare per far male, però una domanda deve interrogarci tutti, i giocatori, gli operatori, chi segue il calcio, voi opinionisti, senz'altro. Cioè, che senso ha fare un fallo a tre quarti campo con il giocatore con le spalle alla porta e con la palla già allontanata? Ecco, è questo che se ne vedono troppi di falli di questo tipo, e qui dovrebbero intervenire gli allenatori, gli stessi giocatori, perché non ha senso fare un fallo di questo tipo. Io credo che ieri si sia capito perché la FIFA, Pier, ce l'ha a morte con gli interventi da dietro, chiede la tolleranza zero. Ho letto le moviole, oggi quasi tutti scrivono che è stato giusto il cartellino giallo per Rinaldo e non l'espulsione. Lasciamo stare quello che è successo dopo, Rinaldo addirittura ha protestato, poi ci sono le mancate scuse, ma quello fa parte dell'adrenalina di che cosa capita in quei secondi lì. Però ieri sera mi sembra, Pier, si è chiarito perché l'intervento da dietro è sempre pericoloso a prescindere. Sì, sì, assolutamente, no? Ma è pericoloso e diciamo che anche dal punto di vista dello spirito del gioco, come diceva il professore, insomma, anche per la zona di campo nel quale è avvenuto, è qualcosa di brutto, no? Poi il giocatore si giustifica dicendo che anche volendo far male è quasi impossibile far male, no? E che comunque sarebbe una cosa di una cattiveria che non può nemmeno immaginare. Io onestamente credo alla buona fede, nel senso che non posso pensare che uno scenda in campo con la voglia di far male, però è stato sicuramente un intervento inopportuno e secondo me sì, è contrario allo spirito del gioco. Ecco, un fallo di quel tipo è qualcosa di pericoloso, che mette a repentaglio la carriera di un giocatore. Poi è chiaro che trattandosi di Giuseppe Rossi, con la sua storia ortopedica e con anche la bravura, la qualità e fammi dire anche dal punto di vista umano la qualità di questo ragazzo e la sfortuna che ha avuto in carriera, tutto questo ha un impatto mediatico molto superiore. Sì, c'è stata una reazione particolare. Se fosse successo a un altro giocatore probabilmente avrebbe fatto. Siamo in chiusura, Pier, salutiamo Piero Volpi, grazie professore. Sì, ci vediamo presto professore, che io grazie a voi. Grazie a voi, buona giornata. Seri, poi faremo una puntata su questa roba. Grazie a Piero Volpi. Pochi minuti all'inizio delle partite. Nel Milan giocano Nocerino e Cristante. Non ci sono né Balotelli né Montolivo. In attacco Matri e Robinho. Ho visto il tuo amico Cassano a sulla tuta. Significa che non gioca a Parma, caro Pier. Noi però ci risentiamo dopo, perché noi siamo in onda dalle 17 fino alle 18.30. L'appuntamento con te credo sia alle 18, giusto Pier? A dopo, stasera sì, ok, 18. A dopo allora Pier, grazie anche a Franco Piantanini, da Gianmarco Ferronato. Ci risentiamo alle 17 alla fine delle partite.